Bobbo e Bobbo, va bene, Bobbo e Bobbotti. E dove? In PME? Allora. Ma così come? C'è il costrai! Ma non la scuola che è a Dolori oggi, boh. Oh, Lu, a proposito, vabbè, sì, quella lì mi ha sempre rifiutato quando l'ho comprato. Ma va venuto Gigi, ma esce un bel forte. Non mi interessa, ogni volta però che cambio la batteria devo mettere il nastro, cioè pressare dove c'è l'attacco, se no non esce. Non lo so perché, boh, che strano, eppure l'attacco è nuovo nuovo. Stavo dicendo, quel LED è talmente piccolino, una mattina me lo faccio, gliela lascio, non è che la bruciano, gliela lascio quella plastica di gomma per mantenere la lampadina. Quella? Quella custodia che c'è, il 430, ce l'ha. Tu quella 140, mi c'è quella custodia che si attacca. Sì, non scalda quello intanto qua. Lasciagli stare. Ma fa un bel di luce, mi attaccano alle metà ore e lo vedi. Tanto è a 12 quello. Sì, dopo le metto due figli, lo provo. Quello vuole mattina, così ce l'ho a fare qualche cosetta, vai. Invece il 430 c'ha la luce debole debole. E gli metto il LED anche lì, capito? Come il 440. Via. Sì, sì. Ci sono anche più grandi, ci sono quelli da mezzo centimetro di diametro, che si usano anche quelli, dipende dalla cosa, appunto, dalla custodia dove lo devi mettere. Però anche quello già si difende bene. Oh, vabbè, comunque. No, già va bene quello lì, alla grande, almeno più visiva, dai, la luce. Va bene. Gianni, non va Gianni, ma andate Gianni, nel 10 è andato. Non lo so. Allora, hai visto quelle che ho messo a manuale? Hai visto la luce che fa? E sono questi LED che ho io nelle strisce, capito? Sono tre LED, perché ogni resistenza sono tre LED. Non puoi metterne solo uno, capito? E fanno un sacco di luce, sono piccolini e ci stanno negli Smith, dappertutto li puoi mettere. Sì, mi hanno mandato la foto, me l'avevo mandato anche Tino la foto. E ho visto che non va bene. Vabbè Dani, attaccate la l'antenna. Non provo a vedere l'antenna, l'interna. Non sono legato, solo che ti stavo chiamando, non mi senti. Aspetta, va a chiamarti io. Aspetta che mi ricollego l'antenna. Ma attaccate l'antenna. Vediamo se ti sento, io parla. Allora accendo il buio, ha già compreso. Esce bene? Da me lo però non sento. Intendo a te e buio. No, non lo sento neanche io. Dani, non arrivi a lui con questa antenna, ma già l'antenna è pratica. Non so se ha una X200, non so. Occhio, non ci arrivo qua. Oh, Claudio, mi senti? Ehi, yeah. Microfono, il baracchino di Antonio questo qua, è un Lafayette, ho sistemato il microfono, va bene, sì, vabbè, sarà un po' un'asina la radio. È un po' un'asina, ma già va bene. Ok, da, a posto, da. Perché dice che, vabbè, l'ha già funzionato anche prima, gliel'ho sistemato che era tutto smucciato il cavo, sia nel microfono che nel sullo spinozzo, sì, a posto, da. Va bene. Va bene, va bene. Bagata. Luca, favore. Nani, non arrivi in PMR, no? Farà tutto. Legata col mio, Cla, dai. Ehi, c'è il roggio. Ma Gianni dove è andato, Gianni? Gianni non lo so dove è andato. Ho chiamato già quattro volte, non l'avevo preso. Luca Garganella. Ecco qua, sono tornato col mio. Dite, eccomi qua. Ma Gianni, fermo, vieni davanti al microfono. Se come te Luca. Oh, io ancora, chi sa ancora prendere il microfono di Antonio? Perché tu ne hai fatto due in 10 minuti. Ma te immagini. Luca! Affamone! Ho capito, ma a me non entra nessuno qua, o qua. Nel 10 non c'è nessuno. C'era Gianni che è entrato qua dai Parigi. No, nel 10 non c'è nessuno, se no magari saremmo sforzati, ma non c'è nessuno neanche nel 10. E c'era anche Gianni, ma Gianni, Giulio! Nel 10, forse nel 20 no, nel 20 non entra, non lo so. Senti cos'è, un canale diverso dall'altro, non è uguale. Ci siamo messi qua per non occupare il canale 23, per far fare due chiacchiere a loro. facciamo già le 20 e 10, non ce n'è problema, ci mancherebbe altro. C'è il suo, su 23 neanche. Aspetta, torna da lì. Vai, là. Non ti sente? Dove c'è? Ha messo l'antenna ancora più piccola. Allora, dice antenna non scegli, No, non so neanche che antenne ha per il PMF. Non so. C'è un'antenna come quella che ho io, se è più grande o più piccola. No, non ce l'hai questa antenna, Claro. Hai di quelle... come ti posso dire, è un filo tutto quanto in coso, in vetro resina, e dentro ha tutto quanto l'ambaradan in ottone. Ah, vetro resina, cos'è, ma quella bianca? E di quelle che hanno lo filo lungo bianco. Cazzo, non ce l'ho io, oggi butta di la sessione di Santenne. Cos'è? Un elemento, due elementi, tre elementi, cos'è? Un elemento singolo da 1,20 m, anzi 1,50 m. E allora ma è sui 50 quella, è come quella che c'ho io. No, ma non è a radiali, è senza radiali questa qua. Ah, senza radiali, eh. Allora non lo gioco, un'antenna è lui. Non lo so, non lo so. Mi aspetta che ti invio la foto, Claro. No, senza radiali non ce n'è di quelle cotte così, lui. Senza radiali? No, già ci sono, già ci sono. Però così lunga è, senza radiali cosa c'è? Che strano, perché la 30, la 50, c'hanno tutti i radiali anche se sono così piccoli, un elemento solo. Non so neanche se è UHF, se è non lo so, io non l'ho mai visto. Mi ha inviato il messaggio, Cla. Non so, riesci a vedere che foto è questa. Dove l'hai presa, Dani? A lavoro. Ma devi guardare, Dani, che tipologia di antenna è, se va bene, se non va bene, capito? Misurata, dai, come stazionarie. Sì, in 4,46 mi dà 1,2, 1,20 dà, in stazionarie. Ma forse è troppo corta, capito, non arrivi. Sono antenne che usano i carabinieri queste qua. È come la quella che c'ho io, non però senza radiali. Aspetta, mando la foto lui. Aspetta che ti mando il nome di questa antenna, aspetta che lo ricercano qua. Prova. Oh, mi sentite? Sì, yeah. Questa qua me la stavo usando Antonio. Io ti ho mandato la foto, lui, quella piccolina, è uguale alla X50. Questa cosa, però non ha radiali. Come esce là? Mi senti? Ma c'è il velo del radio, mi attacca a doia. Guarda, adesso l'ho abbassato di potenza, 1, 2, 3, prova. È un po' meglio qua. Cosa vuoi dire? No, ma va bene questo baracchino, ho proposto un team di Antonio. Non mica gliel'ho obbligato, va bene. Certo, va bene, io ti ho sempre sentito questo baracchino. Non capisco perché non va bene. Va bene, va bene. Non ti dica. No, vabbè, che Luca Flippa va a Radio Sveglia. Cosa va la Radio Sveglia? Allora, andiamo con radio, gli abbiamo una. Ehi, va bene. Guardate lei lui la fotografia. Sì, quella però, se è quella che ha detto lui, è una... Sì, una 4,20, 4,30, non oltre. Però è strano che non arriva, eppure di palo già ne ha. Mettono sì. Ma quell'altra che ha messo arrivava bene, mi sentiva bene, comunque che non mi intendi, forse non risuona. No, non quella con cui stavamo parlando è quella lì. Quella che stavamo parlando è quella che ti ho mandato la foto. Ah, l'altra, allora quella piccolina è che non mi senti. Con quella piccolina è che non ti sento. Ah, allora già va bene, lascia chissà. Gianni, attento Gianni, cosa stai facendo? Molti pari due. Comunque, Claro, questa antenna si chiama Isotron. Isotron? Ah, no, io ce la Diamond. Avevo la 510, l'ho tolta per fare visione a Lucca e io ho messo una di quelle piccole, una X50. Aspetta che adesso ti faccio il link di questa qua. Grazie, lo faccio a Luca e lui sa leggere, io non so leggere. Attento, Antonio. Antonio. Rosando. Ello, ello, se senti rumore di vento, stanno asciugando i cappelli qua, non è niente. Cavara, che sedia! Oh, non ho capito bene! Luca, è con rabbia! Per favore! Luca, comunque Luca, ci ha offeso, Eh sì. Ha detto che noi non abbiamo radio serie perché lui, la radio che ha dato a Antonio, ci va bene. Io gli ho detto la verità, Cla. Per un momento è uscito come fuori frequenza. Io gli ho detto che era Saturno, tu gli hai detto che era fuori frequenza. E Luca ha detto, a chi vuoi rubare di radio serie? A giudizio, a chi vuoi di radio serie? Io come sto uscendo, perché, là? Che a me non mi piace, per esempio. È Cuba come radio, però non sto uscendo come ci va Antonio. Io lo capisco bene. Non è fuori frequenza? No, no. Antonio era tutto sciatto, lo potevo chiamare. È Cuba come modulazione, però è comprensibile. E lui ti dice radio che vedo mi posso comprare la burudesi, ma non mi interessa, non c'è più baracchino a me. Baracchino, baracchino. No, mi interessa, beh, ben finiti una cosa. Ma nulla, ma niente che fai, vabbè io ce li ho, le tengo, le lascio qua, quindi a faroce. Non mi frega niente di vendere. Poi se mi te li mangi, capito? No, è nemmeno le lascio. Beh, io oggi ho attaccato l'S9, oh cla. C'era Antonio in riserva, ha attaccato l'S9 un attimino a farlo girare. Va bene, sempre. Però mi dispiace, ma io non ci riesco, oh cla. Mi dispiace, ma lo perdisco. Magari gli altri sono più baracchinai, cosa ne so. Ma infatti. Io cambio gravi a chi disgazzati. Vabbè, quando è disgazzati, a chi cambia voluto si è appigliato. E va le critiche indi. Non parli, no? Ebbene, sto uscendo, a prova. Tutto a posto qua in monitor. Sì, che stai uscendo. Ah, allora è Luca che non può entrare, eh? Non parli, cos'è? Male ti fa. No, già stai uscendo. Ora. Sì, vi ho inviato il link. Aspetta che devo fare la regolazione. Ecco qua, questo non è il baracchino. Vabbè, come scende a chi? Sì. O scende sta? Tu, questo è il microfono che hai fatto tu. Sì, fa cosa? Aspetta che sto guardando quelli che ha mandato Danilo. Non riesco a capire che modello sia. Non ne trovo in giro di queste antenne. Ah, vero, Tenerife avanti. Avanti, Tenerife, vamos, se ascolti Sardegna, cambio, Tenerife, Tenero de Vega. Troppi numeri, mi hai dato Matteo, ciao. Buona strada, Giacchi, Italia, Sardegna, 0, ullala. C'era che nubi, ci senta per amplificatore. No, avevo il baracchino, è rotto, ma non so se è giusto. Va bene, mi accoppi di radio, Lu. Sì. Tenerife arrivi nubi. Ma infatti a me mi sale a 9:10, mi sembra troppo strano che sia normale. Io se zero la lascio. Bene, mi ascolti col baracchino, Dani. Sì, già si sente che hai cambiato modulazione, cla. È un pochino strano, ti sento, ma già ti sento bene. Non è che mi puoi ascoltare come quello là, però già sente bene anche questo, là, già funziona. A posto, cla. Provati tutti e due, sì, tutto a posto, tutto a posto, ha giugoppiato, non è che ha giugoppiato questa cosa. E questo è l'altro, già va bene. Tutti e due funzionano, vabbè, uno funzionava già. E questo è quello che hai attaccato al connettore, tu già va bene. E lui. Aspetta che c'è un messaggio da ascoltare. Vabbè, lui, controllato hai, come con l'antenna. Beh, sta ascoltando un messaggio. Ma perché non va bene come radio? Ti piace, amplificare, va bene. Abbiamo detto, però TMR va bene. Cosa? TMR va bene, anzi, ha voglia che va bene questa qua in TMR. Scende tranquillo anche il segnale. Non è di quelli che ti fanno vedere il rosso a manetta. 1.2, 1.5 è perfetto, min, è il 4.46. Ma io però lo sentivi perché? Ah, vai. è sopra maturato, hai rubato i denti e ti sei buttato a fare i denti a me. Cos'è che mi hai detto? No, io ho aspettato che smettevi, ho detto, ma no, Luca, perché non lo sentivi? No, con quell'antenna no. Vabbè, se consideri che tu sei in basso e poi hai a me davanti e poi Luca è in basso di nuovo, capite? Quello è anche, è una frequenza poi balorda. Perché viaggiamo tutti e due bassi, se una volta che c'è una montagnetta di palazzi non oltrepassa il segnale. Per quello infatti, capito, esatto, c'è la montagna davanti tu, e così c'era Luca, però verso Claudio siete liberi, verso di me e verso di Claudio siete liberi, però voi due non vi sentite. Magari mettendo una piccola direttiva simile. Non lo so, finirmela con la direttiva là, Lu, che mi si era spaccato il PL. Devo rimettermi a posto il PL, con la direttiva ce l'ho nuova. Oh, mi sentite? Sì, qua. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, prova la radio. Ho letto, Dani, allora così, no aspetta, forse ho toccato il Toni. Allora, così devo mettere 8. Così non va bene, Nani. Un macello, ecco, non si comprende nulla. Cosa non si comprende nulla? Perché? Sento la tua voce e sopra sento roba di rumori strani. Tipo vento e roba così. Si stanno asciugando i capelli, non è niente. Però come modulazione già va bene, dai. Ma quello sì. Allora non c'è problema, già va bene. Ottimo per la truppa. Però è meglio il 440. Mille volte. E quello non è un 440, che è un 430. Che va ancora meglio. Vabbè, il 430, già ci siamo compresi. C'ho anche il 440, ce ne ho tanti, dai. Già va bene. Aspetta che chiudo la porta, così non senti più niente. Vabbè, Lu, controllata questa antenna. Ecco qua, adesso ho chiuso la porta. Non senti più niente. Si sente però molto più lontano. Forse si sente meglio la voce. La voce già si sente meglio, là. Già va bene. Ottimo per la truppa. Ragazzi, io adesso vado e mi faccio una bella doccia, che domani si va al lavoro. Chiudo e ci sentiamo una prossima volta. Allora. Ecco. Ciao Luca e ciao Luca Dal Monte, se ci sei. Se non ci sei, ciao lo stesso. Ecco, io sto chiudendo che vado a farmi la doccia. Ci sentiamo un altro giorno. Ciao. Ci sentiamo un altro giorno. Ciao Dani, alle prossime, stammi bene. Ora 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, prova, vediamo un po' così come cazzo è. Ora 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, va bene, dai. Eia, KK di Roggero, vediamo un pochino così, 1, 2, 3, 4, eccolo qua, lasciamolo stare così, dai, già va bene. Pronto? Luca, ci sei, Luca? Un casino, okay. Quando sei al telefono un casino, ti arrivano i messaggi, devi rispondere, devi assentare, così che non fateci caso. Ehi, già va bene, non ti preoccupare. Ottimo per la truppa. Comunque, così va bene la regolazione, no? Lascia stare così. Ehi, lasciala così. Così va bene. Ehi, perché si sente, se lascio la porta aperta sentono tutti i rumori, capito? Allora lasciamo stare così, dai. Già va bene. Esci invece a spegnere qua, ecco qui, 1, 2, 3, 4, 5, esci che tanto sei abbassato, geniale. Va bene, dai, facciamo una cosa. Io vado a portare il cane adesso, dai, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Va bene, ok, a dopo. Dani, ci sei? No, Dani l'ha chiuso, ti salutate che doveva, non so dove doveva andare. Va bene, lascia acceso qua. Ok, a dopo. E io lascio acceso lì. Luca! Apri il becco! Mi ammali, o me? Luca, apri il becco! Che blusa? Luca, zampone! Dai, fa' lasciato il suo microfono. Sta consegnato il viraggio. Ecco, blu, fatta M, cla. Buon tassello, per i ribocci. Fatta M, andato. Vabbè dai, che ho cambiato il nuovo radio, vado a... che stiamo fregubando, minchia. Vado a portare il cane e ritorno. Sta a guba, io ho di fossi, che su Maria. Cazzo, ma bicio, ecco perché non c'è Barattini, perché per avere la voce che si è abbassata aveva. La grazia di mamma tua, cazzo, può portare il cane ogni volta la stessa storia. Basta per insegnarglielo da piccolo a scendere da solo. Mi ha insegnato a fare i bisogni nel water. Gli ho detto, ti devi sedere, ci mette il masciuga, la taracca mi miscia tutto all'ombo, se vuole. Perché il water è alto rispetto a lui. Non gli si dato un peso la mola. Ah, allora sì, perfetto, ottimo. E lo metto dentro la vasca, e invece non fa niente, vuole uscire, capito? Gli ma vado a fare un buco, ha detto, mettila qua dentro, nonno. C'è lui la gamba. Nell'aria. Comunque posso dire una cosa, questo baracchino non prende colpi. Se mi sposto i due cani non mi sento per niente, invece chi tu devi un po' li prende. No, ma non è che non prende colpi, è sotto. Ma se ne esce nella bucaria. Vabbè, che c'è una bucaria c'ha pure un microfono che non si vi annuta. E il microfono, se mi ci mette un MB5, un tramite. Il microfono. Ma come fa a dire che sto scendo male? Mi sto ascoltando, va. Prova, radio, prova, allora, aspetta. No, se lo metto così va in saturazione. No, per me non va bene. È un po' più pare male, lui, però se ci mette un bel microfono di tavola lì esce un bel bene. E magari un microfono di tavola va bene. E certo che sì. Dai, vado a portare il cane a dopo, se ci siete a dopo, ok? Chiedo, fammi da un po' più lungo, perché da... Sta che a me, là. Prova, radio, prova. Non puoi dire che c'è male, dai, fa un radio. Ma è bello dentro all'imbuto. Vuoi che ti registro, ma sei sicuro? Mica da voi non ne voglio responsabilità che mi li trampi tutto la Baconimi. Registra, vai. Esatto, ti registro. 30, 40, 50. Allora, ciao, aspetta. Vai. Attenzione Luca Flip, se tu ascolti questa piccola chiamata che ti chiama, gamma gamma, adesso la passo un po' l'amplificazione, 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50, Luca praticamente la veloce, mi senti, gambo cambio. E vale da capo, fare che vuoi un po' fatto. Se ti senti, sei tutto compresso, tutto per il cane. Vabbè, è il microfono allora. Sì, è il microfono, perché sei impassato me. Capito? Sei impassato. Se urli migliori in questo caso. E lui gatto. Adesso metto il microfono con l'eco. Avanti. Tu sei Luca. Vabbè. Luca sì. Via. Ma sei Rauco. Ah? Rauco sì. Rauco? Aspetta. No, perché? Oh, mi sembrava una voce diversa. Il segnale ho riconosciuto, ma la voce mi sembrava diversa. Guarda adesso. Ma che stai facendo? Ho tolto il compressore dalla radio. Luca Flipper, sì. Ehi, a Robè. Ah, cacchio, vedere Luca l'altro, cacchio. Perché ce n'era la sua, no? Infatti ho detto, ma la faccio diversa. Perché ce n'era la di Luca, si è abbassato un pochettino il segnale. Sei 9.20, prima eri 9, quasi 9.30. Ma mi sembra strano, perché ho tolto il suo. Aspetta, avete parlato di lui. C'è anche Luca dal Monte, tu sei Luca. Mi senti, Robè? Ma sei l'asino, come mai, Luca? L'asino alla radio, aspetta che abbasso un po'. Guarda un po', Robè, adesso ho abbassato, guarda un po'. No, non è questo che ho abbassato, sei cupo, sembra che ti mancano tutte le tonalità acute. Ma ci verrà giudito. È un microfono amplificato di quelli con la batteria da 1,5, mi capisco. Di quelli dinamici, dai, Astral. Ma il microfono non va bene. Vediamo un po', Pomorino, ci sei? Per carità, Lu. Per carità, se scende male. Oh Robert. Aspetta, non l'ho preso, chi c'è qua? Ci sei tu, Luca Flipper, e poi chi c'è? Ci sono io, Luca, vabbè, Luca cambia sponda, abbassa in PMR, Nessun altro, c'era Claudio, ma mi sembra che è andato a portare giù il cane. Sto andando a portare il cane, sentiamo dopo. Ehi, ciao Luca. A che parte è Luca? A me? Luca del Monte. Boh, e tu invece, Flip, cos'è un K? Cosa Roberto? Ah, esatto, non si comprendeva. Ho letto Luca del Monte, che apparato sta usando? Non lo so, sta sistemando un microfono, non so. Tu invece Luca Flipper cos'è? Un K quello? Assolutamente no, un ICOM. Un ICOM? Un 706. Ah, ho capito. Infatti ti fa la voce più equalizzata, infatti non ci va a riconoscere la voce, tu buco è strano. Prima cosa usavi Luca invece? Sono meglio va. Prova a parlare. 1, 2, 3, 30, 40, 50, ora un po'. Adesso sei tu, cosa hai combinato? Sì, ma non avete che riata, Giudito. Vabbè, sta usando quello che usa di solito. Capito? Vabbè, te l'ho detto cos'è. Ehi, adesso tutti i segnali oltre 9.20, prima volevo se c'era gente quasi 8, allora tutti il minimo che c'è 9.20 in questa frequenza. Oh, Robe, dimmi lui. C'è il colore del 60 tu, dell'MC60? Già, si può fare. Si può fare? Certo. Perché ne ho preso uno, però un pochino capito. Lo vediamo, troviamo una soluzione, guardiamo le matite spruzzate e vediamo un po' un colore che ci assomigli, ma già è semplice. Ma per te è un gioco da ragazzi. Facciamo di tutti, siamo riusciti a risolvere la moto di Gozo, di Guante di Giamma, di Eugenio, che era un triplo strato, un early Davis, un colore allucinante, perché era tutto sbiadita quella cosa, era un rosso che aveva preso sole ed è diventato arancione, siamo riusciti a fargli quello. Caspita, a portarglielo l'originale. Ehi, ma adesso c'è lo spettrofotometro, oppure, vabbè, non è il caso del microfono, il microfono mi guarda il coso, però quando sono colori complicati, che non c'hai le formulazioni, di lì attacchi lo spettrofotometro e te lo leggi lui. Però quello suo era un colore che non c'era in cosa, in cartella, è stato un po' più complicato, ma l'abbiamo fatto. Buono, ma questo te lo giochi, poi ce l'hai tu anche, sicché te lo giochi come niente. Vabbè, te lo porto, però tanto lo sai, no, con la basetta. Ma vuole tutto smontato? Te lo smonto, ti smonto tutto. Vabbè, la parte della, sai, no, la parte nera non posso smontarla che è tutto un pezzo. No, vabbè, quello si sigilla bene con l'altro, i tasti però li puoi togliere, no? I tasti, credo di sì. Se la si copre tutta quella parte di intanto è tutta un pezzo. Capito, così non c'è da fare niente. Vabbè, allora si isola tutto quanto, non c'è problema. Il discorso è che non è proprio lucido questa roba, l'hai visto, rimane semilucido il microfono, non è lucido a specchio come la macchina. Sì, è vero. Vabbè, se è a specchio è meglio. Non è che... No, se lo vuoi fare a specchio si fa, perché ci sono anche le opportunità di farlo semilucido, opaco, eccetera. Solo la base, il microfono no, perché il microfono c'è da isolare poi lo sai, no? I due tastini, no, è un casino. Però la parte base, nella basetta sì. E io? E quando vuoi, che hai, te lo porto. Ma lo stai usando su questo apparato che stai parlando adesso? Ehi, a quello è. E sei riuscito a fare l'abbinamento? Il VD-ICOM sì. Mi ho fatto il cavo con la crepatrice, mi ho fatto lo spezzone al microfono e collegato col suo connettore. E poi sono andato con l'RG alla radio. Perché non è semplice, c'ho la crepatrice, riconoscere il colore e tutto quanto, cioè c'avevo lo schema del coso. Infatti io ho la crepatrice, ho comprato appunto le prese che non le avevo. E poi ho preso un cavo e mi sono fatto le connessioni. Ma è una cazzata. Se c'è l'attrezzatura già si può fare, dai. Il crimpare c'ho la crimpatrice, non è che ti buone a farlo così. Sì, ho la crimpatrice, ma subito la ciappa di zero. La crimpatrice ti fa tre versioni di connettori, capito? No, già lo so, io non l'ho fatto io, ma l'ha fatto un amico mio, cioè aveva fatto la connessione, ha portato la linea internet a casa, un cavo lungo, l'ha fatto via cavo, lui ce l'aveva la crepatrice, ma l'ha fatta lui. Sì. Sì, è una stupidaggine, devi stare attento quando infili, appunto, perché ogni filo ha una sua corsia, capito? Solo lì devi stare attento a non andare due fili in una in un'unica corsia, solo lì devi stare attento. Poi una volta che sono dentro, provi voltezza, si risulta tutto quanto e crimpi, se no poi se crimpi e non c'è il contatto. E poi ci devi buttare tutto, devi comprare anche lo sfinotto oppure? Devi sostituire di nuovo tutto, sì, perché una volta che crimpi non è che la puoi allargare. Allora, senza chi non ha la crimpatrice può anche premerli con un cacciavitino volendo, capito, li crimpi lo stesso, non è che, però ci vuole più pazienza, ma la crimpatrice, ripeto, costa 10 euro, non è che... Ok. E Luca del Monte ci sa ancora? Luca del Monte passa in PMR, passa in Oghi, si vende al miglior offerente. Non è tanto, vedo roba tua su cose marketplace, cose del genere, di prodotti che c'hai in vendita, di baracchini, cose varie, antenne. E stai facendo antenne, ho visto che stai mettendo diverse. Sì, sì, sempre. Sto prendendo una grandmastera, che interessa, che prima me la tolgo, meglio è. Vabbè, a me non interessa, ma possiamo dirlo qua in frequenza, quanto la stai vendendo? Nuova, non è stata mai montata. 100 euro, chi la vuoi, viene, se la prende, se la piazza, l'ho testata e sotto analizzatore e basta, chi la vuole. Ma è autocostruita o originale? No, l'originale. E quelle che fai tu quanto le vendi invece? Allora io vendo 45 la parte elettrica e 80 la parte elettrica e struttura. Cosa vuol dire 80 la parte elettrica e la struttura? Cioè l'antenna, se io mi devo prendere una game master, fatta te quanto la vendo? 80 compresa di struttura, perché io posso prendere solo la parte elettrica, capito? Ma non è paragonabile. Vabbè, diciamo quelle sono a livello industriale, però se usi tutte le stesse cose che hanno utilizzato loro, gli stessi accorgimenti eccetera, va bene lo stesso. Cosa che si verranno più bella magari, perché usano il tubo diverso, il coso di un altro colore eccetera. No, sono cavi diversi. Io come ho sempre detto, chi vuole paragonare, io vengo, chi ci vuole giocare la sua di Game Master, io vengo con una delle mie e vediamo un po'. Se insegna e se i risultati sono diversi, mi dà la propria antenna, nessuno ha mai voluto scommettere. Ma fa fare le cose come me sono a fare, la mia, lo so quanti anni ce l'ho la Mantova. L'importante è che tu rispetti i cavi, lo spessore dei cavi, distanza dei cavi, spira e tutto. E vi raggio, cant'anni, se tu vai delle stazionarie, io non ho mai avuto problemi di stazionare da quando ce l'ho. La Mantova è un'ottima antenna, E a parte in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, che comunque con i disturbi che abbiamo il QRM sale, questo cosa succede? Che quello che sento io con le linee tu non lo senti, capito? Vabbè, io ho il QRM molto alto perché qua c'è anche disturbi e tutta c'è roba elettrica vicino eccetera eccetera, però dove ascolto io, cioè io molte volte vado molto lontano con la mia e ascolto delle persone che molti non ascoltano, c'ho una buona posizione, solo Claudio arriva meglio di me. No, stiamo paragonando due antenne diverse, attenzione, non confondiamo con la posizione. Tu prendi le due antenne, ok, stesso cavo, togli una e metti l'altra, ok, è diverso, ma un bel. Tu dici che la Game Master va meglio della Mantova? In silenziosità sì, ciò permette che io sento ciò che tu non senti, perché tu hai più rumori di me. Ma una cosa è sentire, e poi quando ti devono ascoltare loro, in trasmissione com'è? Allora, se parliamo di watt è un conto, ok? Perché tu puoi mettere più kilowatt di me, capito? Però può darsi che arriviamo alla stessa maniera, sia io che tu. Però come ricezione io ascolto ciò che tu non riesci, capito? È diverso. E questo l'hai provato fisicamente tu? No, questo è stato testato, capito? Ciò che la Mantova, che chi ha segnale, cioè un QRM di 8, 7, 9, io ce l'ho 1, 2, a me mi consente di ascoltare ciò che tu, purtroppo con i rumori, l'inquinamento che c'è in giro, e i disturbi a te ti provocano più rumore rispetto alle mie. Poi io ho sempre detto, io vengo con una delle mie, già dimostrato, con una delle mie, e la mettiamo vicino alla tua, capito? Però nessuno la vuole fare questa scommessa, perché non vogliono giocarci la propria antenna che poi io porterei da Marcetto. Se poi a bocca non sarà colorata, va bene. Io sono rientrato, buonasera a todos. Ciao Clan, chi c'è? Che Tino? Ciao Roberto. Ciao, ti ben sentito. Vabbè, le prove si fanno così sul posto, si mette una vicina all'altra, parete di apparato, parete di cavo, si stacca uno e l'altro e si vede. Si prova un segnale da lontano e si fanno le prove così. Se c'hai gli strumenti anche meglio per misurare il coso, il microvolto di coso in antenna. Vabbè, ma lui è avvantaggiato, perché se in bocca non sarà colorata, insomma, funziona bene. Visto che è una canna da pesca. Guarda, io avevo fatto una canna da pesca da un quarto d'onda a Platamona, c'avevo la gran pen piccolina. Cacchio, il doppio funzionava con un'antenna autocostruita, vabbè, la più lunga fisicamente, erano 2,75 i radialini, fatti con il filo di, diciamo, la base del piano di massa, ma c'aveva un guadagno rispetto alla gran pen che era comprata, eccetera, eccetera, molto, molto meglio in ricezione e in trasmissione soprattutto. Vabbè, comunque quella è lunga. Sembra che funzioni bene. Ciao Tino, buonasera. Buona, buona. Io l'ho messo testata, poi mi è sceso addosso perché ho messo un tubo troppo fino e si è troncato tra la faccenda. Sono stato piazzando anche qua. Vabbè, avrò modo di provarla, ce l'ho ancora. Mi sembra di provata con me, però c'è la differenza da quella da Mantova. Sì, però c'è da dire una cosa, Claudio, che quella di Luca era, diciamo, piano di testo, dai, a un metro e mezzo di altezza, mentre invece la Mantova era già su un faro da 6 metri. Anche quello ci ha messo a che fatto la differenza lì. Per irradiare bene deve praticamente essere in alto, dai. Va bene, va bene. Chi c'è? Luca Del Monte non c'è più. C'era un attimino, poi l'abbiamo richiamato, non c'è più. Luca, ci sei, Dal Monte. Chi è che sta parlando? Avanti. Operazione. E uno delle Tenerife, anche poco fa è entrato. Io ho un sacco di numeri, 1, 3, 4, 5, 6, 7, operatore Amedeo, così ti chiama, Amedeo ti chiama. Zarretto. Ci vuoi con i pesci tu me. Vabbè, esci a fettare un po' di guanciale, va, visto che te lo regalano. Che ti manda pure la foto, Mettino, ma mandate la foto e mi prendi la mava. Questo guanciale con questa carne è bella attaccata. Io sono mandato anche a me, ma vabbè, tu ci credi che io non ci credo, finché non assaggi e dici che è buono di tua spontanea volontà, a me è quello che mi fa un po' così, dai, non sono aspetto la cosa scusata, non puoi giudicare. Ah, lì si dice, noi siamo a guanciare, lì sono rimasti soli, quella che ti guanciale. È bello. Ciao Tino, lì sono rimasti soli, quella che ti guanciale. Marrando da Ciaccani. Ma va, Platinetti. Platinetti. Oh, scusate un attimino, riprendo subito. Questo Platinetti, meglio di poco di voi. Mica non sta piovendo, andate a portare i cani. Ehi, da quando l'ha chiamato, spintere. Oh, guarda che mi ha restituito la chiave da 10, Hai visto come te? Le ali scivolano a lui. Luca, la guanciale! No, hai detto che non è scivolata. Che uguale alla sua, capito? La mattina me l'ha data, Quindi è perdonato. No, i cavallotti mi interessano. Se parlavamo con i cavallotti è un casino. Perché quelli sono fatti a misura a entrare nell'asse giusto di quel connettore, capito? Sì, allora ma tu hai detto, me lo vuole di busciacca, lì ci sono delle gozzo. Vabbè, di un rotore. Vai, non ci credo. Ma infatti, Gitto, siamo nel vostro, dice, no, è controllando il rotore, ma Gitto, è un rotore, dice, non va andani. È per quello che te li ho restituiti, perché appunto sapevo che erano del boom. Attenzione, Luca Guanciale, prego. È buono, è comunque, è buono. Guarda, questi amici che ho di Chiaramonti sono dei bravacci, poi allucinante, tu la giornale, no, quanto ti devo dare? No, è mia sorella, vabbè, è mia sorella blu però. Mia sorella blu, vabbè, facciamo anche la sorella. No, ma anche i maiali, gli agnelli quando li prendono il periodo di Natale, sono i salumi, che poi hanno questo lardo col finocchietto che era allucinante. A quanto l'ho messo in mezzo, finocchietto? Vai, ammazzati tu, che regali le lumache a Claudio, cazzo, e agli altri no. Le lumache non le ho regalate a nessuno perché erano poche, cosa le regalo ad altri, poi non li mangio io, ma ti si piega. Andare a farli me le regalo, promesse, ce ne sono problemi, non so come ti attendo. E gli ha detto Claudio che per la regalata bisogna dare una buccia, amico. Sì, la verità, ma adesso no, però, adesso non me ne ha dato. Ma quanto è fatto non me ha dato, le lumacone le lumache, ma le regalate le lumacchine, molto buone. Quando si può, si può, se non si può, cioè. E come se cade va a lumacca, se ne fa un po' più per la moglie, non è che devi regalarle all'altro, no? Giusto, Claudio? Certo, certo. Poi dove non paga, se non paga non le dai, fai bene. Ah, Luca, aveva quello di Cucù, e gli dici, ma durivi, via giù. Luca, tu che sei esperto di lumacche, a quanto si dice, se la lumacca è un colore più scuro, può dipendere dalla zona in cui la fai. Fatemi una domanda. Tu sei giocatore, l'altro pescatore. Ma tu giuca io, ma dipende, magari è più anziana la lumaca, capito? Più vecchia a me. Ah, ho capito, vabbè. Ma vai fatte, Tino, che venga anch'io a farle. No, le ho comprate da un amico. No, c'è un po' di banana qua. Le ho comprate da un amico, me le ha lasciate a 10 euro al chilo. Sì, quello è il prezzo del mio. No, perché la stanno vendendo a dozzera. A dozzera le stanno vendendo, vai dammi. E poco sono l'onfi. Vai dammi. Infatti, hai ragione, perché io l'avevo comprata per 13 euro a dozzera. Le faccio a chilo, le faccio prima, tanto... Mi ha dato anche qualcosa in più, mi ha dato 3 kg e 200 grammi, quindi va bene. Io gli ho comprati per 13 kg in un discorso e me li ha dati praticamente a dozzena. Vabbè, Luca, è così, non posso dirgli mettere il silenzio in casa. No, mettere in collegio i bambini. E perché casino? Mi pare tu sia affogazzeso, eh? Mi pare che sei tu. No, c'è Nicola che sta mangiando il latte e poi sta guardando la televisione. Beh, ma vinto, vedi? Vinto? Vinto, non dovevo giocare. Li abbiamo svoltati. Svoltati? Di quanto? 8-2. Sergio Vescia, pallacanestro. Allora, sapete, ha fatto il primo tempo, già dal primo tempo stavano vincendo 5-0, poi sono entrati gli altri che hanno fatto la rimanenza. Ci guardano già, quindi sì, diciamo quest'anno sono molto più competitivi degli altri anni, poi vabbè, dovrebbero trovare squadrette praticamente, perché l'anno scorso hanno sofferto, ma anche l'anno scorso sono riusciti a attaccare, diciamo, abbiamo quasi vinto, qualche due l'abbiamo pareggiata, però vabbè, poche perso, diciamo, non sono due durante l'arco del campionato. Già va bene allora, 8-2 è un bel risultato. Sì, già va bene, vabbè, e a voglia. Ma quest'anno non lo scadremo veramente, dovremmo, insomma, le pronze ci dicono che dovrebbe andare bene in tutte le partite. E allora, alla grande. Perché stamattina alle 6 del mattino in piedi, pronti a partire, hai capito? Quindi, allora magari però. Quando c'è le trasferte è un casino. Lo sport è così, purtroppo non si può giocare sempre in casa. Vabbè, quello è vero. Allora, va bene. Che ruolo fa Nicolas? No, non è Nicolas. No, Gabriele è portiere. Ah, e com'è, bravo? Così dicono. Allora, va bene, vai. Se sarà un piccolo buffone. Vediamo, insomma. Dai, un dino grosso, capito, però io sono il Juventino, dico buffo, ma non è il migliore di buffo. E allora? Con questo ci verrà Juve, guys. Chi sa cosa fatti? Mamma mia, come sto? Sì, attenzione, l'abbo panciattato. Che cosa fa Pittelli? Luca, il famone è Garganella che c'entra in magnete, che fa ganasci bene. Ma quello che cosa non si è sentito oggi? No, dice che le fa male il culo, non c'entra. Poverino, che sta soffrendo le pelle, inferno, gli sto bene, domenico che ti accompagna la Maddalena, faccio un amico negro. Tocca! Ehi, Luca. Mia Antonio Vermentino, e cosa sta soffrendo il pene dell'inferno? Allora, così mi ha detto, sta soffrendo il pene dell'inferno, eh. Allora, capita bene. Sì, lui l'ha detto, eh. Te l'ha detto, tratta lo spray e ti basta. Poi, si tratta lo spray, mia Antonio, 250 ml per una giudata, rimani. Ma detto, l'ho già finito. E fuori amari? Amari che sta male, la grande trattenza dello spray e mi ha scatto in bicicletta che ha fatto, l'hai visto? Ma tu dove vedi? Dove vedi? La sgommata che ha fatto per andare vinto. Mica era la lotte 5 i chimici. Sì, sugar. Anto. Ehi, mi sono occupato a prendere un baracchino, dimmi. Biatta, biatta. No, no, stiamo parlando che Mauro De Gico sta soffrendo il pene dell'inferno. Cosa va? Ehi, poverino, cosa c'ha? E nel disco c'ha, che cresci manca e muovisci. Non so così bene. Cosa sai, non pigliare? Infatti, la giurista, vieni con me alla Maddalena, mi è rimasto un amico. Quando ero militare a me mi sistemavo, ogni volta che avevo un dolore andavo da lui, lui ha quattro tamponati e vamo già alla playa. Ma la giurista, basta vedere la Sinara un attimino. Ah, no, lì ci sono i nei bianchi, non fate niente, ciò che si asini neri ci vogliono. Ossia. Allora, poi c'è Brugeghi che c'è, non si sa mai, invece ha pucciati la cuti, fatti ne ha scatto cavalli. Ah, bobo. Dino! Oh, Luca, mi servono 11.000 euro, devo fare una cosa. Aspetta un attimino, aspetta, mi assento un attimo che vado nel comodino. Sì, io guarda se c'è, in contanti, con tanti saluti. Dammi l'IBAM, Tino, te lo faccio domani mattina alle 7. Però ne ho 8 solo. Abbiamo 8 tu, 2, 1, insomma, qualche uno deve un po' di una volta dopo l'altra. Però ci muriamo, dai. Io 8.000 euro, grazie, c'è dove intendi. Io fermo colletta, dai, non fai dire, insomma. Luca, non fallo il famone. Aiuto, dai, ma andiamo, ma che amici siete? Che tu ci trovi in mezzo alla... insomma, non dico una cacca, ma... Senti, io ce li ho, ma non li posso toccare, cazzo, fino al 2022. Cosa deve comprare? Almeno diccelo, no? Visto che dobbiamo finanziare. Che riola, hola. Mi sentite? Ho voluto sapere, insomma. Cazzo, fai un giro alla manco, no? Insomma, sei fatto da bravo. Io porto la carne. Vieni, tu hai già fatto da bravo. Non so come li bevi. Sentite? Bisogna scegliere il fuoco perché non è dappertutto che c'è più rossire. Quanti anni fai? 40. Quanti? 40 o 50? 40 più 10. 50? Io il 20 novembre invece siamo del rabotto, io e Ilaria, tutti e due assieme, cazzo, boh, non so come ti fare. Sono una gazzurca, fai. Mi sentite? Una doccia, cosa hai detto tu? Fate una mega torta, fate una torta, beh, cioè, dai, fate una torta da 3-4 kg e mettete due nomi, e va bene, dai. Ah, oh, ci rimango a casa, ma ci vediamo, vabbè, se c'è qualche pesticino da spendere poco. Sì, oramai, un che tuo amico ci sono diventati tutti, cazzo, torniamo e ci stanotte, sì, cazzo, telefonato 35 euro, vai la certa, non vai. Sta una campagna, te la posso dire la vita, punimo musica. Ehi, già c'è la campagna della roba di Guglio, di navi uni, ma vi da gente, questo per io lo siamo un po' accorto. E io c'ho la campagna Badigunno. Facciamo una cosa, io buccio, uno buccia una birra, l'altro buccia rovino, uno buccia una, cioè, tu fai la doccia, chi tu buccia una cosa, chi tu buccia l'altra, ci si parte lo stesso. E ora con lo spray. Va bene, rega, chi c'ho, così ci andiamo tutti con anche i rigidi. Cazzottino, ma ha provato lo spray di Luca? No, no, no, ancora no. La Saudi, la Saudi Cla 5 litri hai ben aggiudato. Mi fa come sì. Non puoi dire che sono un ottimo consumatore. la pubblicità però solo non è fatta. Sì, a me mi ha fatto un difetto, devo essere guasto. Boh, effetto contrario mi ha fatto, ma mi ho sempre maniato la culo, l'hai giudito a Luca, secondo me me l'hai dato al contrario a tu. Ma perché c'è quello per uomo e fa quello per donne, quindi? Stavata delle varie, Ru. Allora me la devi solo a me, ragazzo, poi c'era Antonio. No, no, tu è che l'hai spostato al contrario. No, dire la verità che quando l'hai tappato con Nato, si è tappato con Nato e non sapevi quale era più, ne avessi uno qualsiasi. Sì, un gatto che è stato 3 dì a mangiare una culo, ma proprio di quelle piacevole lì. Ah, gli ho detto, boh, Luca mi ha dato lo spray guascio. Domanda Antonio a vedere se è guascio. Tanto, ma a te cosa ti ha fatto? No, già, crack, era un attimino a Rubiano degli Osso. Dimmi, dimmi, va. Dimmi tu. Tutti così dicono tu. L'ho detto che a me mi ha fatto effetto contrario il suo spray. Ti stavo chiedendo se a te ti ha fatto come me. Che a me mi ha fatto magnatona Q. No, a me è diventato un doccio. Ma se non ridi. Per può venire lì, tu. Se la mamma sta Giovanni non più, le rivende, gatto. Ora, vai, vamos alla playa, pompa. Ma va. No, come se la pompare a me. Tu, lascia lo spray, mi dice un microfono, mi. No, è fermentino, difficile. Ma è me. Va via freddo. Anto, vabbè, funziona. Non intendi? Cari, provati, dai. Sì, va bene. Andare, dai. Se il fermentino è in effetto, mi lupo. Non so che ci faccio, se non ho fame. Hai già tutti. Io sono un bel stacco lo stesso. Io, per dire la verità, mi sono fatto stamattina alle 6 rispetto, ho fatto la giornata lì, poi ho mangiato, mi sono coricato e mi sono fatto alle 6:30, quindi sono riposato. Fai schifo. Ma io, chi lavora così, non è che... Tu sei zeno, Bigger. Non è che... Poi mi sono mancato troppo ieri, no? Tu sei sano, Bigger, saresta, però... Spray, mi volo, spray. Fino appunto, ma guarda cosa mi ha fatto. Vabbè, tuo padre sì, l'ha mangiata? No, però mi ha chiesto com'era. Aspetta, ti mando questa fotografia. Via, manda, manda. Luca, Cecilia, Luca, Mario. Mimì. Antonio Fermentino. Sei corri a tuo cugino. Ma tu lo conosci? Luca, Rango. No, tappami. Un'altra volentiera, Luca? Ma che cazzo? Che bel tenente. Guarda ogni gatto, l'ho visto oggi in televisione. Sì, sì, sì, è dimagrito, è dimagrito. Ma chiedo, è dimagrito come a pezzi? Quanto a chi dice che è dimagrito, cazzo? Ma secondo me ne hanno evocato la massa. È probabile. Sembra che abbia fatto quell'operazione allo stomaco. Infatti non le sta manco la parrucca più. Però invece i brattenetti può fare girare la brigia. Luca, ma te ne vuoi fare un... Girare la brigia. E può fare pure la magnani. Ah, clà, ti avevo mangiato di poco, cade dai, Luca. Oia, per carità. Tra poco lei ci rompe il micione e rubio. Sì, se non è bruciato i zoni in live, se magnetti. Comunque è buona, dai, guarda, l'ho ordinata anch'io. La prossima settimana vediamo se è buona. Dai. No, io l'ho mangiata, già è buona, solo ho fatto a cucinare troppo, perché la sangue non mi piace. Però già è meglio del cavallo. Boh, il cavallo siete troppo... Non lo so, forse è perché non è... come si dice? Riposata, dai. No, no, devi fare una girata, e che a me la va mangiata cotta cotta, c'ho la rovini, noti? Sì, devi contare a 3 forse, se c'è fuoco vivo, la giri dall'altra, poi altri 3 la butti fuori. C'ho la shake, lui non serve più, capito? Tu mi accorgo che funziona meglio, lo sai, i picchi vanno molto veloce, vanno adesso. Infatti c'hai il picchio positivo, adesso tanto prima non si muoveva. Ah, ma no, ma mi accorgo che funziona molto bene, mi accorgo. Contento, contento. Dì già tu che capolavoro che ho fatto, dì già quello là. è Luca Flippere che ha detto voce a Platinette. Come si è? Luca Platinette. Guarda, quando lui riesce a saldare un connettore di telefono, quelli connettori di ricarica, allora è più bravo di me. Guarda, io ti metto a te alla prova, io non mi come mai riuscito e non nasce Baconi a dirlo, ti metto a saldare un connettore N, infatti io non ci sono mai riuscito, sempre l'adattatore ho messo T. Sì. Sì, vabbè, non ci sono riuscito perché non hai voluto mettere a fuoco il cannocchiare. No, no, a me, io non so ma come è fatto. Vabbè, però l'ho comprato, però non lo so. No, no, a me io te lo saldo. Grazie, ne avevo tirato le balle. Mamma, ci ho provato un paio di volte, due, tre volte, lo mettevo sempre in corto. C'è cioè questo puntare fine, il gatto tirai dentro la Brento. Poi alla fine l'ho mollato e mi avevo comprato l'adattatore. Diciamo gli adattatori quelli NPL, no? Che ci mettono le antenne Diamond soprattutto. Non sono mai riuscito a saldarlo all'RG quello 213. Assolutamente. Infatti l'antenna che ho messo adesso ho messo l'antenna attacco PL, non ha giubbotto più attacco N. No vabbè, questa qua c'ha l'attacco N. Perché avevo messo il PL non andava, praticamente ho allargato il mocchettone e la esce andata in corto l'antenna. E non andava. Così è. Ascolta, ma i risultati conosciamo, cosa ha fatto la Tio Intel? 1-1. E cosa ha fatto la Roma con la Roma con la Juventus? No, gioca Napoli Juventus alle 8:30. Oh, alle 8:30, alle 9, boh. Cioè Napoli Juventus, cioè è triste. Non l'hanno rinviata. Perché rinviata? Non lo so. Non ti ho visto nulla. Vedi le formazioni, la partita per iniziare. Sto leggendo qua su Sky. No, l'hanno rinviata, cara. E come mai? Ma c'è un coronavirus? Sì, hanno trovato dei positivi a Napoli. Non è che siamo a fanculti napolitani. Ma secondo me è questa una mafia, chissà cosa. Mafia non mafia, la gente sta morendo, la gente sta ammalando, poi dicono quello che vogliono. Però è un casino, non lo so, vabbè. Oh, le 8:30 sono, ragazzi, io vi saluto, se ci siete, dopo facciamo la chiacchiera, se no domani non è domenica, lunedì, quindi ci aggiorniamo, dai, io lascio tutto acceso e vado a pappare. Ciao a tutti, buona cena, Tino, Luca, Antonio e chiunque fosse in ascolto, ciao. Via, ciao qua, ciao. Un attimino, devo ascoltare un audio e poi riprendo. Da capa, sì. Luca! Ehi! Via! Riprendi! Via! E via tu! Cosa stai facendo? Mangiando? Ho già mangiato, tutto a posto. Provato hai quello due spruzzi, lì? Oh, guia! Giù, tappate i due spruzzi! Aggiubate! Non danno di più che da voi, capito, lo sai, no? Da voi si marra pure la tramazza! Lo sai, te l'ho detto, tu ne hai fatto di più allora di due. Mamma mia, meno non è scazzati, te l'ho detto, cazzo, non fanno più di due, tu nel minimo ne hai fatto quattro. E ci ha provato una cosa, ma funziona già, ma vabbè, la carrozza che è meglio, va. No, la carrozza, non attacca l'OBL sotto. E te l'ho detto, mamma mia, va, Ocla! Se n'è andato Claudio. Aspetta, devo andare a mendicare. Uscire. La giornata dello spray, Antonio, ti ha spruzzato di più e aveva un casino. Ma che l'hai battesa allora? Sì, mamma, mi avrei detto passare di due, solo che già la gente convinta e vai uno in più e Come sospetti? Oh, non è casi nulla che c'è un gozzo, Non è casi nulla. Da quando l'ho messo tanto, che sta fatto? Vai da bravo. Da quando l'ho messo mano, gatto, non scalda niente. Hai altro cosa stai utilizzando ora? Sto usando la Fayette Zio, sto usando. Ma assassino sì, di segnale, vabbè, mi ha detto le condizioni della tua antenna. Lo so, ma non abito più a Latte Dolce. Ancora, ma hai già detto, lo so.